Maestro, te ne prego, dammi un'ora d'illusione con il sorriso delle tue canzoni. Prego, maestro, prego, un po' di musica per me. Questa sera voglio ancora con la tua musica divina far cantare il cuore. Prego, maestro, prego, un ritmo allegro per favore. Non un languide canton, ma motivetto che non parli di passione. Suona, suona ancora, con l'orchestra allo special. Suona, suona ancora, quel motivo tanto originale. Prego, maestro, prego, un po' di musica per me. Che stasera il cuor non so dov'è. Io chiamar non voglio più, voglio obliar quello che fu. Prego, prego, maestro, tu.